finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Due 37 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Non seguiamo questa sera, come vi sarete accorte e accorti, le prove tecniche di trasmissione di Elettrodo, che è in trasferta. Come gli capita sovente in questa stagione in terra teutonica. Perciò al suo rientro fra due settimane ne sentirete di belle. Che di solito ritorna carico di intenti e di dischi di musica. Va bene, 25 o'clock invece, alle 22:38 sulle frequenze di Radio Onda Rossa, come annunciato qualche minuto fa, con ospiti questa sera, accolti un po' al volo, nelle ultime ore proprio. Abbiamo raccattato gli URZ, poi ci diranno loro come si pronuncia in maniera corretta, non prima però di aver espletato i convenevoli, cioè avervi ricordato che appunto Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 libera nell'etere, e libera perché non c'ha padroni, padrini, non fa pubblicità, e quindi vive grazie esclusivamente al supporto di compagni e compagne che la sostengono, di ascoltatori e ascoltatrici che ne condividono il progetto editoriale. Sì, veniva bene anche auditoriale, perché è audio, quindi vedi come nascono i neologismi, Diciamo Radio Onda Rossa, che vive grazie al contributo di tutte e tutte che la sostengono a vario titolo, in vario modo. Importante anche la sottoscrizione economica della radio, appunto per pagare bollette e spese varie, appunto, che una radio deve affrontare, tecniche e tecnologiche. Benché cerchiamo di fare tutto do it yourself, di cercare di mettere insieme le attrezzature il più possibile in maniera autogestita, dicevamo, comunque serve del denaro, dei soldi. Sul sito www.ondarossa.info troverete anche, andando su Sostieni, una paginetta di modi diversi per poter sottoscrivere per la radio. Vi ricordiamo anche le iniziative che in queste settimane a seguire saranno diverse e numerose in giro per la città e talvolta pure fuori della città, In più vi ricordiamo il 61 80 40 01, che è il numero del conto corrente postale di Radio Onda Rossa, da interstare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma San Lollo. Vi ricordiamo anche che per comunicare, per le vostre comunicazioni con Radio Onda Rossa, ci sta la mail della radio, si chiama ondarossa@ondarossa.info, e infine per insultare noi altri oppure mandarci quelle che sono le vostre proposte, o perché le producete, autoproducete, o perché sono cose che vi piacciono, comunque c'è un'altra mail della trasmissione, 25 o'clock@ondarossa.info, e la potete utilizzare per ciò. Infine, il telefono storico di questa emittente, anche questo nel 1977, è lo 06491750, telefono di Radio Onda Rossa che illumina di rosso la redazione. Infine, proprio all'ultimo della sigla, vi invitiamo al Son del Barrio Live. Come avete ascoltato dallo spot, il 13 maggio, cioè dopodomani, 87.9 di Radio Onda Rossa presenta il Son del Barrio Live. E a seguire Cumbia Cumbia Cumbia col DJ set del Frente Cumbiero Romano. Dalle 22.30 in poi al 360 gradi, che sta qui a San Lorenzo, qua vicino a Via degli Equi 57, San Lorenzo. Ed ecco, ci siamo in diretta come avevamo annunciato. 22:44 minuti primi, gli URSS con noi. Si dice così innanzitutto, e adesso cerco di farli ricomporre. Non si sente nulla, aspetta. Vai un po'. Eccoci qua, forse un po' adesso, prova adesso. Ok. Direi che la pronuncia esatta. Perfetto, ora si è sentito bene. La pronuncia okay. Esatta. Buonasera, ciao. Urs. Tu sei? Io sono Sergio. Sergio, poi troviamo Nicola. Nicola, che già era venuto, poi andremo a svelare da queste parti. Era venuto, non so se una volta solo, anche più volte. Una volta. E poi? Nico. Nico, che rispettivamente suonate? Io il basso. Io sono, diciamo, dei synth digitali. E Nicola? Io sinta analogico e voce insieme a Sergio, anche in realtà la voce è utilizzata tutte e tre. Va bene, poi andremo a capire meglio di cosa si tratta. Questo progetto URSS, che viene da Roma, grosso modo, mi sembra di capire. E vabbè, magari lo vogliamo subito iniziare con una traccia musicale che mi andrà a scegliere, così capiamo subito di cosa si tratta. Io ho qui il vostro disco appena uscito, credo. Sì. Va bene, che cosa andiamo a selezionare? Poi parliamo dopo. La numero 4. La numero 4. Sì, la moto. Perfetto. Come ti dico madre, Allora, torniamo in diretta quindi con gli Urz, come presentati in precedenza. Allora, vogliamo parlare un po' di questo lavoro, della band, insomma, da dove venite, come nasce questo progetto e come nasce questo disco. Sì, dunque noi veniamo tutti da altre esperienze musicali, da altri gruppi, alcuni anche in comune. Poi Nicola è il cantante dei Doomraiser, quindi un gruppo metal, diciamo doom metal, importante nella scena romana ma pure italiana, io credo, proprio come genere, come gruppo di genere è stato importante ed è ancora importante. Quindi veniamo tutti da esperienze un po' tra il metal, l'heavy rock, la psichedelia, così. Avevamo voglia di iniziare un progetto nuovo. Non vi bastava? Sì, no, a parte io ero disoccupato, quindi io avevo voglia di riniziare a suonare. Tempo quindi libero, sì. E, no, disoccupato musicalmente, no, anche lavorativamente. quando abbiamo iniziato anche lavorativamente, poi per fortuna ho iniziato a lavorare. Oltre disperati, scherzo. No, avevamo voglia di sperimentare, di fare un progetto diverso, giocando anche un po' con l'elettronica. È un campo in cui siamo neofiti, assolutamente dei dilettanti, però stiamo iniziando, insomma, a capire, a divertirci. E devo dire, quest'album è forse, ecco, se devo dire una sensazione su questo album, che ci siamo divertiti, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo registrato noi, abbiamo fatto le grafiche, poi l'abbiamo prodotto noi e ci siamo divertiti tanto. Credo che attualmente, ecco, senza nulla togliere alle altre esperienze, è quella che mi ha dato più soddisfazione in totale, perché mi so divertito assai proprio. Questo del divertimento è tra l'altro uno degli elementi che più ci interessa qui, appunto, perché poi rispetto a un panorama che è quello, che per fortuna non è l'unico, però della musica commerciale, insomma, o di un certo modo poi di interpretare la musica, che è quella del successo, che è quella della fama, che è quella del... molte volte ci si dimentica che poi invece suonare è una cosa figa, divertente, piacevole, bella. Sì, io infatti, noi siamo partiti con l'idea proprio della libertà totale, anche infatti a volte, cioè spesso ci chiedono il genere e non è facile il genere, no, da individuare. No, io voglio dire che c'è un grande paradosso tra quello che sta dicendo. Attenzione che Nicola potrebbe fare anche un quarto d'ora di tirata, quindi prepariamoci. No, io voglio... Lo fermo io. No, io voglio solo dire che no, sembra un po', cioè, un paradosso quasi. Cioè il fatto di trattare dei temi che sono un po', se vogliamo, oscuri, se vogliamo comunque che toccano le profonde coscienze più nere, no, dell'oblio, e poi alla fine appunto sentire Sergio che dice ci siamo divertiti tantissimo a fare questo lavoro, in realtà è vero, è così. Quindi quando qualcuno ci dice ma mazza che pesantezza, che musica pesante, sì, perché sì, comunque in realtà sia le corde musicali, quindi le armonie che utilizziamo, sia comunque i testi e i concetti, sono abbastanza, come dire, hanno una portata pesante, perché comunque si parla appunto di problemi che bisogna sviscerarli per poter risolvere noi stessi, no? Quindi quasi come una sorta di viaggio che in qualche modo ci psicoanalizza e ci porta comunque a dei lidi di salvezza, tra virgolette. E quindi sentir dire Sergio ci siamo divertiti, è così, è la realtà, cioè, bellissimo questa cosa. Abbiamo strani modi di divertirci proprio. No, ma perché io poi credo che in fondo, cioè non per presunzione, per aspirazione, quando uno vuole fare una cosa artistica, tra virgolette, lo dico come aspirazione, non per presunzione, ripeto, e ci deve stare sempre una parte di divertimento, di gioco, perché altrimenti non c'è creatività, no. Non c'è l'elemento appunto poi che crea, che genera. Sì. Direi che il momento non della creazione è un momento serio, perché appunto uno butta in gioco le emozioni, però il momento del registrare è stato, cioè, divertente proprio nel senso del gioco, no? Dei suoni, delle parole, del costruire un gioco serio, no? però sono i giochi più belli, i giochi seri, no? Quando si gioca sul serio, no? Però vai. Appunto, il miglior modo di mettersi in gioco, appunto, giocando. Esatto, infatti, proprio questo è il concetto. E niente, quindi il disco, il primo disco come nasce così. Come tempistica, quanto c'è, cioè da quanto avete creato il progetto e quanto c'è voluto per fare il disco? E allora, per capire anche il gioco, poi se è stato veramente creativo. Noi ci siamo formati intorno all'estate del 2014. Giusto, no? Sì, dell'estate del 2014. Fa, proprio in questo però, periodo. Sì, in questo periodo, infatti, però. Beh, in realtà ci è voluto un po' sia per comporre il materiale sia per poi finire la stesura dei brani e quindi poi andare in studio a registrare, essendo stato un lavoro autoprodotto, perché comunque abbiamo fatto tutto noi, abbiamo registrato noi, abbiamo fatto le grafiche, quindi l'impegno è stato anche abbastanza grande e il tutto più o meno è stato di tempo, cioè un paio d'anni per fare l'album, ecco. Quindi praticamente già da quando avete cominciato a suonare l'intento, anche perché forse la formazione sì. È un po' da disco, non so se live avete fatto. Abbiamo fatto due live per il momento. Però non è una cosa, insomma, da poco sotto il palco, ecco, è una roba più da ascolto, appunto di atmosfera, di suoni, di sonorità, di ambiente che riuscite a creare, insomma. Sì. Ma guarda, io vorrei aggiungere il fatto che comunque io e Nico venivamo da un'esperienza che era appunto Tiresia Raptus, che ci aveva un po' lasciati a gambe per aria, nel senso che comunque il progetto si era un po' sfaldato, il bassista è andato ad Oslo, insomma ci sono stati un po' di problemi di formazione. Noi un po' siamo rimasti un po' con la mare in bocca, quindi volevamo continuare questo percorso appunto di giocare con la musica, come dice Sergio, e quindi un percorso sperimentale della musica. Però cambiando, cambiando ovviamente, cioè, certo, si poi si semina una cosa, poi se ne accorge. Sì, sicuramente, ecco. Però comunque venendo da un progetto comunque in cui noi eravamo coadiuvati, comunque stavamo insieme, è anche stato facile ributtare le basi per un altro nuovo progetto. Poi ovviamente Sergio, l'incontro con Sergio ci ha esplicato proprio, ci sì, ha... sì, sì. Vabbè, non so se vogliamo, io ho già un'altra mezza idea, ce l'ho da proporvi. Non so, vogliamo andare già un'altra traccia? Poi sono lunghette, avete detto, sì, alcune, sì. Quindi lasciamo tranquillamente assaporare con la dovuta tranquillità gli URZ. Sì, cioè, allora io direi la 7, che è la 6. La 6 o la 7? La 7 è scelta. La 6, quindi ok. Quindi come si chiama e cosa abbiamo ascoltato prima? Scusate, prima abbiamo ascoltato L'Amoureux, L'Or de la Chouette. Che meno male gli che amanti, l'hai detto te, perché prima l'ho detto. Gli amanti, no, vabbè, ma tanto anche il nostro francese ci siamo lanciati in questo titolo, però almeno ci ha creato più problemi. L'ha imparato, insomma, uno sì, del sì, lo sei ripetuto 50 volte davanti sì, sì. Allo specchio. No, no, un po' di francese lo so, però. Meno vabbè. Male, dai. No, no, vabbè, l'amante, l'innamorato, L'ora della civetta si chiamava il brano di prima, è un po' ispirato. Alla carta degli amanti, dell'innamorato. Vabbè, poi avremo tarotte. Modo pure sì, dai, di scendere nel dettaglio, come dire. E adesso ascoltiamo invece. Adesso ascoltiamo Todestrib, Varg Timmen. Benissimo. Quindi abbiamo ascoltato la sesta traccia da questo lavoro degli Urz che si chiama appunto Todestrib. Ah, non si chiama Urz. No, si chiama Todestrib. Il disco si chiama Urz, perché non mi risultava sulla copertina, non avevo visto altre indicazioni. Però può essere, no? Uno può anche fare un titolo di un disco, sarebbe un'idea. Fa un titolo di un disco ma non lo scrive sulla copertina. Se volete dovete chiedere. Ti paghiamo l'idea. Ok, va bene. No, fuori onda stavamo un po' commentando le grafiche della copertina, perché dicevo, il disco l'ho sentito mentre così ero un po' distratto, ma non distratto da cose, cioè che pensavo ad altre cose, lo sentivo proprio come sottofondo perché quello mi serviva, e l'ho trovato un disco poi estremamente vario, ricco, minimale, che lavora appunto su poi una semplicità di fondo. Alla fine non c'è una grande il prodotto finale, immagino che per lavorarci non è stato affatto semplice, ma il prodotto finale è risultato. E mi è venuto in mente, vedendo la copertina, che è quasi totalmente, quindi il book interno, la copertina del disco, eccetera, eccetera, è tutta in grafica e in bicolore, cioè il bianco e il nero, due assoluti. Ecco, e l'impressione che ho avuto posteriori, poi riascoltando il disco, che si tratta di un disco in bianco e nero, anche dal punto di vista sonoro e musicale. È una così un'osservazione. Così, che può avere attinenza con il lavoro che avete fatto, oppure ho preso completamente una cantonata, come posso dire? No, invece secondo me hai notato bene, nel senso, allora, sicuramente c'è il bianco e il nero come due non colori assoluti, appunto, quindi due contrari, però tutto questo gioco, appunto, ricollegandomi al gioco, è stato un lavoro inconscio, nel senso che noi ci siamo fissati molto su un'idea, e quindi trascendere il dualismo, trascendere i due aspetti della vita, che è il bianco e il nero, la morte e la vita, la notte e il giorno, eccetera eccetera, cercando di andare oltre la bidimensionalità, appigliandoci appunto ad un punto universale, quindi un punto che sia al di là dei due estremi, dei due poli, positivo e negativo. Questo però ovviamente è stato un lavoro un po' inconscio, è stato ragionato per alcuni aspetti, però il fatto di aver fatto una copertina così minimale, ragionato sul bianco e nero, è stato anche un processo che ci ha portato inconscio, che ci ha portato poi alla stesura del lavoro che abbiamo fatto appunto con le grafiche, no? Sì, un po' il prodotto finale ce lo siamo ritrovati fra le mani, nel senso che agivano in noi delle suggestioni cinematografiche, stilistiche, stampe, incisioni, tutto un po' sul bianco e nero, in effetti. Artisticamente la tutto grafica un po' non è semplicemente la grafica che si mette sul disco, cioè uno fa un disco e poi fa la grafica. Mi sembra di aver capito che no, innanzitutto è un processo, diciamo, un che un po' più complicato. Sì, no, allora, essendo dei pezzi a livello di testi, di concept abbastanza così complessi, nel booklet, nel libretto abbiamo voluto giocare anche con delle immagini rappresentative, delle immagini non nostre, però abbastanza, diciamo, sconosciute, nuove, di artisti abbastanza di nicchia anche, oppure stampe cinquecentesche, cose del genere, qualche simbolo creato da noi, per creare delle corrispondenze fra il testo e l'immagine, che però devono essere un po' interpretate. Anche là c'è una parte di gioco, diciamo, intellettuale, se vogliamo, divertente per chi si vuole mettere a sfogliare un libretto, ascoltare un disco, E per esempio ultimamente abbiamo avuto una recensione su internet di una zin Music Buffet, no la recensione, poi dopo vediamo come ci ricorderemo come si chiama. Art of Glass. E, anzi, ringraziamo perché c'è stata una lettura talmente attenta, un ascolto talmente attento del disco, una lettura talmente appassionata del libretto che ci ha stupito. Perché non sono lo stati, conoscete voi? Sono stati, no, sono stati colti una ragazza. Sono stati colti, a parte dei dettagli che proprio noi pensavamo che nessuno ci sarebbe mai arrivato, sinceramente. E poi, anzi, ci ha fatto notare pure a noi delle cose. Quindi. Quella è stata una grande soddisfazione perché appunto abbiamo visto lavorare, cioè entrare in azione quello che avevamo pensato, cioè questo gioco di immagini, suoni, per creare delle suggestioni magari inaspettate anche rispetto alle nostre un po' previsioni. Sgamati, perché magari avevate un po' sgamati, una cosa occulta per adetti, un po' sgamati, sì, assolutamente. Guarda, proprio hai colto il mio sentimento di quel momento. Penso non capiranno, ma invece ha colto delle cose questi ragazzi, incredibili, e ce ne ha fatte scoprire altre. Quella è la cosa, però è stato una bella soddisfazione, perché poi tu un prodotto del genere lo fai per un orecchio attento, e quindi quella è la soddisfazione più grande che puoi avere. Hai detto anche una cosa importante, poi senz'altro continui te, tiro solo quest'altro spunto. Hai detto una cosa bella e importante, cioè quella di ascoltare un disco, quindi parliamo di disco innanzitutto, cioè di un oggetto che, per quanto appunto sia un oggetto pure quello virtuale, perché se il disco non lo metti nel lettore CD o vinile, non so se avete anche pensato di fare qualcosa in vinile per questa cosa, poi me lo direte. E appunto, e non solo appunto prendere il disco, infilarlo nel lettore nel caso del CD, prendere il libro e andarsela a sfogliare, sono tutta una serie di gestualità che non sono così automatiche, così scontate nel 2016. Vai. No, io volevo continuare dicendo che sicuramente c'è una matrice occulta, no, nel nostro lavoro, però la matrice occulta è anche stimolante, nel senso non deve essere un qualcosa di nascosto solo per noi. È bello invece quando appunto il fruitore si imbatte nel lavoro e coglie degli aspetti che magari, e quindi possono stimolare qualcosa di irrisolto, qualcosa di che sta magari all'interno della propria coscienza, che non viene espresso quotidianamente. Quindi è anche un bel lavoro questo, cioè il fatto di evidenziare qualcosa, di nascondere qualcosa per farlo scoprire dopo un viaggio, attraversando magari delle strade sconosciute, no? In questo una senso. Una sorta di evento rivelatorio. Sì, in cui poi sì, sì, sì. Ognuno rivela, stavo facendo l'errore, una sorta di rivelazione in cui però il rivelato può essere poi diverso per ciascuno che ascolta, insomma. Sì, infatti io direi più che occulto, forse l'aggettivo che userei è esoterico, nel senso che cioè tutto diventa esoterico, anche la lettura di un libro importante nella propria vita o la visione di un film diventa esoterico. In che senso? Cioè non magico, non soprannaturale, ma rivelatore in qualche modo, illuminante, no? L'illuminazione che sia da un'esperienza anche estetica, cioè perché puramente no, una estetica, grafica, certo. Una grafica, una lettura, un ascolto, un libro importante, quindi quello diciamo è la tensione che ci muove, quello è la tensione che cerchiamo di far vibrare, poi sperando di riuscirci. 23:17 minuti primi, voleva aggiungere ancora qualcosa riguardo l'argomento? No, diciamo 23:17 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa, 87.9 della banda romana e laziale, 0649 1750, che è il numero di telefono della radio, e io passerei quindi a un ascolto successivo. Sì. Ora direi la numero uno, dai, sentiamoci. La numero uno che si chiama? Si chiama Il Nodo, è quella più fortemente strumentale. Sì, è quella più fortemente strumentale. È quella che magari un giorno utilizzerò per andarci a lavorare sopra con varie manipolazioni. Sì, se me lo permettete, ovviamente. Questo, per esempio, è uno dei pezzi in cui la comprensione va fatta insieme all'immagine e all'unico piccolissimo testo, una frasetta che accompagna il brano. In greco sta tutto là un po' la chiave, diciamo, dell'interpretazione. E va sgamato pure quello, eh? Sì. Va bene, dai. Ce l'ha sgamata, sì. siamo ritornati in diretta 23:30 minuti primi, Radio Onda Rossa, dopo quasi 12 minuti dell'incipit del lavoro degli Urz che stiamo presentando con loro qua in studio in Via dei Volsci. Allora, abbiamo fatto ancora fuori onda quattro chiacchiere, non è uscita fuori una domanda, un tema da affrontare, ma almeno 10. Adesso il problema è affrontare il primo, perché invece c'è una gran confusione in testa. No, prima di tutto stavamo più o meno accennando a un altro aspetto, insomma abbiamo parlato delle grafiche, ovviamente quando si parla di musica occorre parlare anche dei testi, di quello che si scrive appunto di quello che si scrive intorno alla parte proprio più semplicemente musicale, cioè quella fatta con gli strumenti, quindi il cantato e i testi che ci girano intorno, che appunto mi sembra di capire che non sia anche questo aspetto così scontato, così lineare e così semplice della forma canzonetta, insomma. E come avete lavorato su questo tema qua della comunicazione? Allora, i testi sono, allora, innanzitutto i testi non sono staccati dalla musica, nel senso che il lavoro musicale che è stato fatto insieme ad un concetto, è stato elaborato insieme, quindi musica e concetto è stato elaborato allo stesso modo, allo stesso tempo. E i testi, ovviamente, certo, le tematiche sono varie, nel senso ogni brano comunque ha una sua particolarità, una sua storia. Però la cosa bella è che anche sotto questo aspetto è nato l'elaborazione in stile gioco, nel senso che alcuni testi, per esempio, sono nati da un'elaborazione concettuale di alcune cose che sono sia mitologiche ma anche poi quotidiane, che fanno riferimento a fatti quotidiani, e inconsciamente alcune letture, dopo aver ragionato insieme o comunque dopo aver aperto un dibattito, giorni dopo arrivavano magari delle letture che o ammonivano o in qualche modo davano una direzione. Quindi anche questa cosa un po' è nata quasi per caso, ma non è un caso anche questo, perché se vai a vedere, alla fine tutto quello che si riscontra dopo il nostro ragionamento in qualche modo ci ritorna, no? E quindi anche quello poi alla fine si è rivelato un gioco, ma un gioco che ha funzionato nella forma mentis, nella forma ragionata, appunto. Anche da questo punto di vista una cosa bella, divertente, proprio nel senso profondo del termine, le prove di questo disco, in cui sono nati i pezzi, spesso sono stati, credo, un 80% di chiacchiere e 20% di musica. Questa è stata una cosa liberatoria, purificatrice, cioè delle sedute. Cioè, dici proprio a livello della composizione, sì, cioè quando sì, vedevate sì. In studio per oggi. Sì, cioè del tipo: ho un'idea, quest'idea, perché non fare un pezzo su questo concetto? No, iniziamo a parlarne. Quindi allora, grande logorrea iniziale. Assolutamente sì. E la sintesi finale ci si arriva? Sì, ci si arriva. Ancora c'è dentro la sintesi, c'è questo dibattito. Si parte da una suggestione che può essere un riff, un giro musicale e un'idea concettuale, e poi tanti discorsi, ma proprio curativi. Cioè, questa era un'altra idea di partenza del gruppo, uno spazio di analisi, di terapia, di sfogo, di libertà, di liberazione dalla quotidianità, e poi cercare di rintracciare il gioco dove stava quotidianamente, nel rintracciare delle congiunzioni, degli incroci fra temi molto alti, diciamo, situazioni letterarie, poetiche, cinematografiche molto alte, anche con incrociandole con esperienze della quotidianità, quindi poi ributtando delle depressioni oppure delle gioie, delle soddisfazioni, e questi pezzi sono nati così. Infatti diciamo che sono stati poi raggruppati in due pezzi, in due gruppi, in due sezioni, che sono Tragoedia e Symbolum, Tragedia e Symbolum. Non c'è un vero filo conduttore, se non questo della dell'autoanalisi dei collegamenti di questo tipo, direi, no? Cioè, il lavoro è stato prendere dei riferimenti forti, atavici, con un'accezione appunto anche esoterica, come diceva Sergio prima, sviscerarli e portarli nella quotidianità. Quindi la linea di comune è appunto quella di trattare tematiche che comunque sono state già trattate magari anche millenni fa. Ad esempio forse il pezzo più rappresentativo in questo senso è San Giorgio il Drago, no? Cioè proprio, come dire, un'icona, un'iconografia che tutti abbiamo presente, no? E esce fuori questo titolo e questo pezzo che poi parla veramente di San Giorgio il Drago, cioè racconta la storia di San Giorgio il Drago, seppur in una maniera trasfigurata, più simbolica, perché Nicola, è vero, eri stato, avevi visto una grotta dove c'era questa statua che l'aveva colpito. Io e Nico abbiamo ricollegato che il patrono della nostra città era San Giorgio, quindi nasce una chiacchiera di questo tipo, che cosa rappresentano questi due personaggi, il bene e il male, però poi San Giorgio è veramente il bene e il male, esatto, veramente il male, esatto, insomma. Qual è la linea di demarcazione? Loro parlano fra di loro nel pezzo e si dicono a vicenda ognuno le proprie ragioni. Il drago fa notare al santo che in realtà ammazzando il drago sta ammazzando una parte di se stesso, non sta risolvendo nulla, cioè si sta facendo forse del male, che come il santo trova il martirio, il drago trova il martirio. È tutto un gioco, diciamo, al massacro fra di loro. Sì, appunto, anche se ne volessimo parlare qui a riflessioni già avvenute ci metteremmo almeno una mezz'oretta. Invece avete dovuto sintetizzare tutto in poche righe. Poche righe, insomma, è lungo. Questo è lungo. Forse era quello che rappresenta più la semplicità tra tutti i brani. C'è un testo un po' quello più semplice, che appunto il nodo, che appunto è la frase in greco della Fenice, della Sfinge, che parla con Edipo, e quindi gli pone appunto l'indovinello, no? Il famoso indovinello della Sfinge. E si ragionava sul concetto dell'incesto, no? Che per esempio nella Bibbia è così esplicitato come una forma quasi naturale, e come invece nella tragedia greca tutto questo riveste un'accezione differente, che è appunto tragica, e quindi rappresenta un nodo che ci portiamo portiamo appunto nei nostri giorni, comunque, no? Comunque è un fatto abbastanza importante il fatto di sottolineare che l'incesto è una cosa semplice, è una cosa comunemente accettata, e invece magari appunto in un'altra cultura diventa tabù e diventa anche tragedia, diventa comunque un qualcosa che fa scaturire degli eventi negativi, e poi diventa psicanalisi, perché certo. Comunque noi tutti dobbiamo risolvere i nostri problemi, almeno, del femminile e del maschile, certo, insomma, no? Un elemento pregnante. Prego. Infatti prima parlavamo di filo conduttore. Se dovessimo trovare un filo conduttore per quanto riguarda il disco, soprattutto vicino. Ok. Tutta la gestualità, sì. Molte volte basta. Allora, se dovessimo trovare un filo conduttore è appunto un percorso, il percorso nostro, che è partito proprio dal nodo, dal primo pezzo, che appunto rappresenta il complesso edipico. Abbiamo ripreso la tragedia e portata nella psicanalisi, questo sì. Più o meno è quello che abbiamo fatto, sì. con il pezzo, e quindi questa rappresenta proprio un primo gradino, che il nostro primo gradino che abbiamo percorso insieme. Ok. E da qui è nato poi, è scaturito tutto il resto, insomma, da, questa è stata la scintilla che poi in realtà ha portato alla fabbricazione del disco. Quello è stato uno degli esempi, diciamo, di messa in scena di una risoluzione personale, familiare, chiaramente dove l'incesto simbolico, dove appunto, esatto, pure simbolico, dove l'incesto sta a significare il conflitto e le cose che ognuno di noi si trascina, certo, a livello familiare, di storia personale, e che poi se ne trascina proprio dentro di sé. Ma infatti in quei giorni c'era la mia compagna che leggeva la Bibbia, e quindi leggeva l'aspetto tra virgolette dell'incesto come un qualcosa di socialmente accettato, no? Sì, perché comunque si crea la comunità, che è appunto l'umanità stessa. Dall'altra parte io leggevo e quindi c'era una, e quindi si ragionava anche su questo discorso, la, mi ricordo una delle famose, il famoso bianco e nero, li siamo, sì, ritornati, il famoso bianco e nero ci stava l'opposto. Io stavo leggendo invece il mito appunto di Edipo, mm-hmm, e quindi l'ottica assolutamente divergente a quella. E mentre si ragionava sul discorso dell'incesto, che comunque era necessario, no? In un discorso scaturito dalla Bibbia, quindi da un libro sacro, in quel contesto era assolutamente un'escalation di eventi negativi che hanno portato poi a una al dover per forza capire il perché di quell'incesto, perché c'è stato quell'evento che ha portato tutto quell'esploa tragico, no? Dell'evento. E quello che poi ci viviamo noi oggi, cioè tutta la confusione, il fatto di non accettare la nostra femminilità per noi maschi, il fatto di non accettare la mascolinità per le donne. Si parla magari di un livello sessuale che però poi alla fine si esplica in tante sfere della quotidianità, della vita, no? Certo. E dunque, allora, però è rimasto un dubbio, perché abbiamo citato Il Nodo e San Giorgio e il Drago. Cosa mandiamo ora? San Giorgio e il Drago. San Giorgio e il Drago, che mi suggerite? La numero 2. Ok. Tanto, e quindi... tanto si stanno ammazzando. Sì. Thank you. 87,9 della modulazione di frequenza, questa volta erano 15 minuti. Per San Giorgio il drago Urs. Allora ritorniamo in diretta con loro con una manciata di ancora di interrogativi che ci ponevamo. Primo fra tutti, da dove viene il nome Urs? Il nome l'ho trovato studiando, è una parola osca. Una parola osca che significa, diciamo, almeno secondo l'interpretazione che ne è stata data, uno spazio aperto, naturale, però dedicato al sacro, uno spazio sacro, quindi può essere un bosco sacro, sì. Sostanzialmente è un bosco dedicato al rituale, appunto. E quindi ci piaceva il suono della parola, ci piaceva il fatto che fosse una parola antica, italica, che forse creava pure un sostrato fra di noi che siamo emigrati un po' tutti centro-meridionali, qualcuno più meridionale dell'altro. E poi proprio l'idea che il gruppo potesse diventare uno spazio sacro, tra virgolette, nel senso che abbiamo pure esplicitato prima. Sì, io direi, l'ho detto pure in un'altra occasione ultimamente, nel senso arcaico proprio del termine, cioè uno spazio in cui ci si pongono delle domande importanti. Questo sacro in questo senso, chiudersi, non in altri. Chiudersi nel senso scegliere un luogo, no? Che sì, può essere appunto il luogo sacro, ti dicevi il bosco, che era un posto aperto, magari può essere uno studio di registrazione, però essenzialmente per aprirsi. Uno spazio, per uno capire, per... è uno spazio per farsi delle domande, ecco, non dico nemmeno per cercare delle risposte, ma per farsi delle domande grosse, importanti, e quindi ritagliarselo questo spazio, perché al di fuori di questo spazio non è più possibile porsi delle domande importante. E anche questo è vero. Io volevo aggiungere che volevamo in realtà trovare un nome che appunto ci desse la possibilità di delimitare uno spazio, come dice Sergio, alla ricerca. E tant'è vero che i nomi antecedente a Urs sono stati molteplici, uno dei tanti è stato l'idea. È stato, per esempio, mi ricordo Sigillum, cioè il latino, no? Sempre comunque un'accezione di una lingua antica, è una lingua comunque madre, nel senso che comunque volevamo un po' ripercorrere le strade dei nostri antenati, no? Cioè nel senso dare un'importanza fondamentale a quello che è la cultura italica. E quindi ovviamente noi siamo italiani, siamo nati qui e volevamo un po' riscoprire quello che erano le nostre radici, no? Ecco perché abbiamo optato per un nome appunto che fa parte di una lingua antica italiana, italica, no? Di un popolo italico che poi in più c'è la suggestione verso tutto quello che è antico, no? Tutto quello che è passato, e proprio perché dal passato magari possiamo riscoprire qualcosa che può risolvere problematiche, dubbi, eccetera, che viviamo quotidianamente nel presente. Bene, invece come state spiegando appunto in questo spazio, prima avevamo cercato un po' di affrontare, poi ce lo siamo un po' perso il tema nel vario divagare, che è bello, interessante, anche perché appunto lo spazio che avete ricreato in qualche forma, in qualche modo anche qui, no? Anche forti dell'esperienza che avete fatto, porta appunto a dover in qualche maniera far uscire un disco e quindi comunicare tutto questo vostro lavoro, che appunto magari non dà risposte, pone altre domande, però agli altri e quindi una dimensione essenzialmente che è anche quella live, in cui appunto poi prima accennavamo del vostro presentarvi sul palco e della vostra ricerca anche lì, oltre che nel fare nell'incidere un disco, anche live, di cercare di dare qualcosa di più a quello che appunto avete fatto come lavoro nello sì, studio. Stiamo parlando delle maschere anche che stiamo utilizzando nei concerti. In realtà sono iniziati da poco, perché abbiamo esordito da poco. E sì, le maschere, che pure in qualche modo rimandano, diciamo, al come iconografia all'antichità, però con l'obiettivo di far crescere in futuro sempre di più questo aspetto, diciamo, scenografico, teatrale, di recitazione, di immagini, di icone, proprio per accompagnare l'ascolto, per suggestionare di più, e anche perché pensiamo, fin dall'inizio, da quando abbiamo ascoltato i pezzi che creavamo, abbiamo sempre avuto un po' la sensazione della colonna sonora, no? E quindi da cui siamo molto affascinati, e quindi sono nostre grandi influenze, grandi colonne sonore, grandi accompagnamenti, diciamo, del cinema. Per cui ci piace ricreare questo dal vivo, e vogliamo curare sempre di più questo aspetto. Volevo aggiungere che per quanto riguarda i concerti, in realtà non sono non hanno l'accezione di vero e proprio concerto, ma devono rivestire il ruolo di, appunto, rituale. Il rituale che in qualche modo, come dicevamo prima fuori onda, riattualizza il mito che è, appunto, la culla di un pensiero, è la culla e la nascita di un qualcosa che ci portiamo fino ai nostri giorni. Quindi ci piace sottolineare che il nostro concerto in realtà è un rituale proprio per che evoca sia quello che noi abbiamo dentro, e sia quello che in realtà c'era già stato, ecco. Sì, con l'occasione diciamo pure che il primo concerto che abbiamo fatto, abbiamo esordito dal Verme, qua a Roma. E innanzitutto siamo grati allo spazio che ci è stato concesso, perché comunque il locale si è sempre dimostrato aperto, diciamo, a musiche di tipo diverso, a serate molto, molto varie, e credo culturalmente anche molto importanti. Quindi siamo stati veramente grati al locale, ad Alverme, e abbiamo accolto con una certa con molta sorpresa e soprattutto con rammarico della chiusura del locale. Infatti approfittiamo di questo spazio per denunciare, insomma, quello che poi secondo me, ma sicuramente anche secondo i miei compagni di viaggio musicale, è un sopruso, perché poi ho letto le motivazioni assurde di questa chiusura, che parlano di frequentazioni malavitose di questo locale, che secondo me è solo un pretesto, perché sapevamo la nostra data, ad esempio, è stata rimandata di una settimana. Di una settimana, perché erano arrivati, diciamo, era arrivata la polizia, o carabinieri, non so chi, per proteste, per lamentele dei volumi, che oggettivamente è un problema inesistente. Ci è sembrato, quando noi abbiamo suonato, perché si suona qualcosa come 5-6 metri sottoterra, in un locale totalmente insonorizzato. Quindi di queste storie ne conosciamo, perché noi suoniamo a Roma da tanto tempo, viviamo a Roma da tanto tempo. Purtroppo Roma si dimostra città tanto provinciale in queste situazioni, e ci rattrista molto, perché chiudere un locale che ha dato spazio a artisti nazionali, internazionali, ha fatto serate di spessore, è veramente un peccato. Anche in questo caso non ci rassegniamo affatto alla chiusura del Dal Verme, augurandoci che si trovino le forme e i modi per fare in modo che possa riaprire al più possibile, proprio per le cose che dicevi te, come luogo. No, ma io sono sicuro che riaprirà, perché poi generalmente queste sono battaglie che vengono vinte secondo me dai locali, perché poi andando a scavare reali motivazioni non ce ne stanno, quindi si tratta di un ostruzionismo sciocco, insomma, veramente provinciale. Io voglio aggiungere che questo in realtà è un chiaro assalto alla cultura. Cioè, nel senso, questo e ovviamente tantissimi altri, assolutamente, però ovviamente noi mi viene in mente il Teatro Valle, no? Che ha avuto una storia importante di occupazione, in quanto occupazione che denunciava in realtà la città, proprio la mancanza di luoghi io credo che questi luoghi sono dei punti di aggregazione, dei punti di vitale importanza soprattutto per una città come Roma, che è enorme, una metropoli e ha tantissimi disagi. Aggiungo, ma io dico, con tante problematiche che questa città ha da risolvere, sono andate ad intaccare proprio su un qualcosa che secondo me sono, appunto, come dice Dario, sono delle risorse che vanno non solo rispettate ma vanno assolutamente incentivate, perché la cultura oggi purtroppo sta morendo sempre di più. C'è un piattume, un'ideologia superficiale che purtroppo pervade le strade non solo di questa città ma di tutta Italia, di tutta Europa. Quindi io credo che, insomma, con tante problematiche, proprio andare ad intaccare su un fattore così, cultura più libera viene attaccata, certo, e poi in favore di quella cultura su cui passano i timbri dei vari amministratori. Infatti, quindi, poi la grande tristezza, detto in maniera molto più prosaica, è che vanno a rompere proprio i coglioni alle cose belle, cioè che rovinano le cose belle. E quella è la cosa triste, che quando nasce una cosa bella ti devono rompere le palle. Questo giusto per essere più prosaici di quanto siamo stati finora. È che è veramente una cosa, è veramente una cosa imbarazzante. E insomma, speriamo che riapra al più presto. Io voglio essere ottimista, perché già altre volte è stato chiuso, so che è stato chiuso, è stato riaperto, è stato chiuso per qualche tempo, poi è stato riaperto, quindi insomma voglio essere ottimista e spero che riapra presto. Quindi un in bocca al lupo e un augurio forte ad Alverno. Credo anche che questo, come altri casi, abbia bisogno proprio di mobilitazione, cioè appunto come stiamo facendo noi, portando semplicemente così una solidarietà e un appello di tipo verbale all'iniziativa, però appunto bisogna poi farli vivere questi posti, andandoci anche a suonare, partecipandoci, eccetera. E secondo me, come giustamente diceva Nicola, rientra, non è nemmeno questo casuale, stiamo in periodo di campagna elettorale e gli sgomberi e la chiusura di luoghi, di spazi dove, insomma, sembra quasi che diamo fastidio in qualche maniera come città antagonista, alternativa, non omologata, mettetela come vi pare, insomma ormai sono più loro che ci definiscono che noi che riusciamo in realtà a trovare poi i punti, le linee neuronali di congiunzione appunto di questa città che in qualche maniera resiste e si vuole appunto i propri spazi vitali, semplicemente, insomma, in una città che vorrebbe essere europea, dove, che ne so, mi viene in mente un'altra cosa, vengono come è successo d'altronde, infatti la cosa è nazionale, come è successo a Bologna, vengono cancellati i murales, vengono staccati dal muro per metterli la chiusura mossa dell'Atlantide, di cui parleremo tra l'altro però poi possiamo essere tranquillamente invasi da orrendi e demagogici poster elettorali che dicono le cose peggiori di questo mondo e sono l'antiestetica per eccellenza. Io credo che i poster elettorali, proprio i cartelloni elettorali, siano l'obbrobrio assoluto, sono dappertutto, si appiccicano dappertutto, i murales no, però sì, di potere, penso, così pervasiva, così ormai pesante, proprio nel senso che è difficile da sopportare, proprio perché appunto tutto sommato va a toccare le realtà che si pongono semplicemente su un piano di iniziativa, insomma, di senza togliere assolutamente nulla alle altre, però appunto sei iniziato da quelle tra virgolette illegali, perché magari erano spazi occupati, sì. E poi mano a mano si procede di questo passo fino a togliere proprio il respiro, l'ossigeno a questa città che vorrebbe invece che c'è, appunto è vero che appunto c'è una cultura, però ci stanno tanti e tante che invece per fortuna appunto ce l'hanno ancora il cervello e lo usano, ecco. Non lo so. Cosa volevamo ancora dire? Ah, sì, un'altra domandina c'è. Che abbiamo parlato degli URSS, ovviamente speriamo che presto suoniate nuovamente, se ci stanno appunto progetti futuri, speriamo magari anche a Dal Verme, appunto non lasciamo per scontato. E riferimenti web, insomma, come trovarvi, come cercarvi? Sì, c'è la nostra pagina Facebook, com'è la nostra pagina? Cercate URSS, cercate URSS su Facebook. L'ho trovata anch'io. È facile, quindi dai. Escono altre cose. Se le metti su Google, sì, bisogna andare al settimo, sesto. Sì, anche su Facebook. Volevo anche promuovere un po' l'album, nel senso che comunque, certo, noi abbiamo l'album in uscita da un paio di mesi e insomma, se siete interessati, noi accogliamo le vostre richieste. Sì, ci contattate tranquillamente per via mail e manderemo il nostro materiale. E poi vorrei, se possibile, pubblicizzare l'evento in cui suoneremo, sì, il 18 giugno, che si chiama Sabina Volume Festival. Che è un festival che ho organizzato appunto in una campagna della Sabina. In realtà non sappiamo bene la località, ed è ovviamente un festival dedicato alle sonorità libere, tra virgolette, da schemi, psichedelia, doom, sperimentazione musicale. La cosa bella, insomma, che è un evento senza fine di lucro e in completa armonia con la natura, perché è tenuto appunto in uno spazio aperto, in un bosco, e speriamo insomma di vedervi numerosi. Campeggio. C'è l'aria campeggio, anche modi anche di ritornarci sopra. Va bene, allora penso che abbiamo detto tutto, giusto? Se non che appunto continueremo. Saluti particolari, ringraziamenti, anche se a quanto ho capito insomma il prodotto è stato proprio un prodotto di voi tre. Ringraziamo noi tre e ringraziamo collaborazioni esterne, così ispirazioni. In realtà vogliamo ringraziare Danilo, che ha masterizzato l'album, che ci ha dato una mano su appunto sulla fase mastering dell'audio dell'album, e ringraziamo voi per lo spazio che ci avete concesso, insomma. Grazie. E ringraziamo ovviamente Juan Pedro per le foto che appunto sono comparse poi nell'album, e ringraziamo anche ovviamente Margherita, che ha fatto, che ha rivisitato, diciamo, i nostri disegni, li ha ridefiniti, insomma. Il bello comunque che è sempre in un progetto che poi appunto volevate fare essenzialmente voi, proprio come prodotto di questo incontro, sì, e di questa vicenda, di questa storia. In realtà quando si fa qualcosa si è sempre molto sociali, insomma. Infatti. Per quanto... E poi ovviamente ringraziamo i pochi che ci seguono. Dai, ok, c'era qualche altra cosa da parte tua, mi sembrava? No, non te lo ricordo. Volevi intervenire, poi è passata. Va bene, dai, allora noi andiamo a concludere con cosa? Con la settima traccia? 1+1=3, che è il punto d'arrivo, diciamo, del nostro disco, il superamento di ogni dualismo. È una traccia un po'... è un dramma surreale in cui compare un dittatore e un prete, che sono rappresentazioni dell'inconscio. Certo. E dei poteri pure che agiscono sull'inconscio. Del potere però pure che ogni persona ha dentro di sé, che praticamente sono delle catene. La retorica dittatoriale e quella religiosa diventano catene, certo, nei confronti di una parte che di ci condizionano, sì, insomma. Va bene. Diciamo che è un inconscio blasfemo, tra virgolette, nel senso un inconscio che si ribella, che si ribella a tutto quello che poi è comunemente accettato, no? Quindi tutto quello che è ordinario, tutto quello che è cesellato, scatolato. Questo inconscio che si ribella è sia un ammonimento e sia nello stesso tempo è anche una guida a come potersi liberare da questo limbo che poi alla fine creiamo noi. C'è una prigione che ci costruiamo noi fondamentalmente. Appunto, 1 + 1 = 3, un'altra matematica, un altro modo di vedere le cose per poter superare il dualismo. Pezzo più, sì, folle, teatrale, grottesco, soprattutto il più radiofonico. Buon ascolto. Eccoli qua, 1 + 1 = 3, URSS. Thank you. dopo aver salutato gli URSS, che molto gentilmente sono venuti a trovarci questa sera, andiamo a fare le chiusure dopo aver ascoltato in sottofondo, se non andiamo errati, così presi le tracce un po' sparpagliate, da Hurt, Tomahawk, Zoo e alla fine poco fa, a fine così partecipazione degli URSS, abbiamo ascoltato l'ultimo lavoro pubblicato ma non uscito da parte dei Black Mountains, un lavoro veramente eccellente che va a celebrare il decimo anno dell'uscita del loro primo disco nel 2005, appunto targato 2015, e che raccoglie il disco più un altro secondo CD che invece è fatto di remix, tracce inedite, che forse sono è ancora più figo del disco stesso. Detto ciò, noi andiamo a concludere una grande confusione in testa, perché avremmo dovuto dare moltissimi appuntamenti ma ce li siamo praticamente persi tutti, se non che il 17 e il 18 di giugno, ve lo anticipiamo così in maniera informale, ci sarà uno o due giorni in quel della SNIA dove la radio insomma si incontra con la città e la città incontra la radio. Che andando così, avvicinandosi all'oggi, il 24 sarà appunto il compleanno di Radio Onda Rossa, e come al solito faremo il brindisi qua sotto, e vabbè, stiamo organizzando pure quella, vi faremo sapere a tempo debito, ormai manca poco. E invece manca pochissimo, poche ore, perché si parla di venerdì prossimo, 13 maggio. Qui a San Lorenzo, El Son del Barrio Live. Cubia Reg, come recita lo spot che andremo ad ascoltare, poi l'automatico ci proporrà diffusamente, e a seguire DJ set del Frente Cumbiero Romano. Insomma, comunque, pure dietro questa roba c'è la lunga mano della Schiena del Sol. Il tutto 13 maggio al 360 gradi, via degli Equi 57 a San Lorenzo. Sì, e poi mi è venuto in mente quello che volevo ricordare, già stato ricordato ovviamente precedentemente dalle compagne dei nomi delle cose, che ormai da 35 minuti siamo il 12 maggio, una data importante per tutte e tutte noi, perché nel 12 maggio del 77 veniva uccisa a Ponte Garibaldi Giorgiana Masi, una compagna, una femminista che era scesa appunto in strada per partecipare alla manifestazione, al comizio del Partito Radicale che si teneva a Piazza Navona, per ricordare appunto che il referendum sul divorzio era stato vinto, e soprattutto per infrangere quello che era l'assurdo divieto, allora come oggi, di manifestare nella città di Roma. La polizia quel giorno sparò e uccise Giorgiana. Questa è la pura e semplice banalità dei fatti. E eppure anche di fronte a questa evidenza per molti giorni, per molte ore. Cossiga e chi all'epoca stava al governo negò questa evidenza. Comunque così, tanto per dirne una, chi ha sparato non si è mai saputo. E quindi probabilmente nessun magistrato si è sentito ad aprire un'inchiesta che avrebbe dovuto senz'altro mettere così ai ferri o sul banco degli imputati un esponente delle forze di polizia o delle forze dell'ordine. Questo è quanto. E ci ritroviamo ancora oggi e domani, appunto, oggi stesso, 12 maggio, ci ritroviamo con chi subisce processi con delle pene enormi, sia se viene usato quel famigerato articolo del codice Rocco che si chiama devastazione e saccheggio, che ha colpito compagni e compagne appunto accusati di questo reato per quanto riguarda il 15 ottobre, e sia per chi comunque è stato condannato anche in assenza di evidenze processuali a una cifra spropositata di anni in appello per quanto riguarda il 14 dicembre dell'anno prima. Va bene, con questo è tutto, noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo per quanto riguarda 25 o'clock. Le trasmissioni di Radio Onda Rossa riprenderanno domani mattina con, dopo la compagnia automatica Zara, con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadine, redazionali del giovedì, il giornale radio alle 13, lo spazio comunicazione alle 13:30, visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Non abbiamo spulciato se tracce di cinema ci sarà dopo un paio di settimane di latitanza. Alle 16 Attica Blu sorterà Black Music, alle 17 la schiena del Sol, alle 18:30 Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQI. Il giornale radio di solito il giovedì non riusciamo a coprirlo, e alle 20:15 va in onda Allegro con Fuoco, la trasmissione di musica classica di Radio Onda Rossa. Alle 21 Do It Yourself Invasion, che ci sta domani? Allora, domani andremo a presentare un festival metal, il primo festival metal antifascista di Roma, che è Metal Against Shit. Bada! E andremo a presentare appunto questo festival, una chiacchierata con ospiti illustri. No. Vabbè, teniamo i puntini di sospensione. Gente corpulenta. Oibo. Vecchie conoscenze di 25 o'clock. Abbiamo capito. Però lasciamo comunque in sospeso. Un alano di mistero. Insomma. Un alano di mistero. Quindi domani dalle ore 21 si parla di questa iniziativa. Va bene. E poi a seguire, ovviamente, Apostasia, gli apostati che andiamo a salutare, bella Paizo, bella Fongis. Il nostro saluto più importante, invece anche più importante di quello degli apostati, ma loro non se ne vorranno senz'altro, è a tutti e a tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale. Il carcere, la latitanza, gli arresti domiciliari, la clandestinità, i famigerati CIE e tutte quelle altre strutture che addirittura vengono sgomberate, dove a vario titolo, a varia natura si cerca di normalizzare quell'eccedenza di forza lavoro così utile alla nostra economia, che sono gli uomini e le donne che vengono da fuori dei confini, ecco, diciamola così. ce ne andiamo sotto la luna comunista, bella così. A mercoledì prossimo ci risentiamo e venerdì ci vediamo al 360 gradi in sostegno di Radio Onda Rossa. Daje. Let it begin tonight.